Gli amici adesso avranno tante cose da parlare, poi mi riempiranno di consigli e di rimproveri, perché adesso sto con te. Noi due avevamo fino a ieri i nostri amori veri, sembravano per sempre, adesso invece siamo qui. E nessuno capirà che sto con te. E nonostante tutto e tutti, io corro da te, controcorrente, contro la gente. C'è la mia vita che sta cambiando itinerario ed io, fino a un momento fa, lo giuro, neanche lo sapevo. E adesso sto con te. Ci siamo entrati lentamente nella pelle, poi ci siamo combattuti fino in fondo, fino a farci male. E alla fine hai vinto tu, e io sto con te. Ed è solamente amore se corro da te. Ci siamo presi, ci siamo arresi. Voglio sentirvi tutti adesso. Sta. Io no. Non si può. Anche se poi qualche parte del cuore ci scoppia di dolore. Stare senza di te, io mai. Stare senza di te, non potrei. Noi ci vogliamo. E non ne ha colpa nessuno. Stare senza di te, di te, di te.